Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ma voi chi diavolo vi credete di essere? Siete solo Hobbits! Compensa una schiappa a livello sportivo, per cui riesco. Se non sai giocare a calcio, fai l'arbitro di calcio. E io ho fatto l'arbitro di calcio. Se poi non sai fare neanche l'arbitro di calcio, fai politica. Questa è la, come dico sempre al mio amico Gianluca Rocchi, che arbitro era il numero uno della sezione, che ha fatto carriera, è lui che è diventato arbitro internazionale, non io che sono diventato presidente del consiglio. Io guadagno 5.000 euro netti al mese, che sono tanti. Fermi lì. No, guardate ragazzi, ho fatto l'arbitro in Garfagnana. Se pensate che mi preoccupi fare una discussione sugli stipendi, la riduzione dello stipendio, caro amico che sei intervenuto su questo, la puoi fare su due settori. Il primo sui manager pubblici, e il primo atto insieme al decreto degli 80 euro è stato il tetto dei 240.000 euro. Gli 80 euro super discussi, super contestati, ma guardate, io sugli 80 euro ho grandissimo rispetto per chi li ritiene una mancia elettorale. Siccome conosco delle persone che guadagnano 1.000 euro al mese e non riescono ad arrivare alla fine del mese, e grazie agli 80 euro si sono permessi uno zainetto in più, una cena in pizzeria in più, io su questo sono contento. È una valutazione che rispetto. Oh ragazzi, che gli 80 euro non fossero apprezzati da voi, lo sapevamo da tempo. E allora, signori, svegliati? È venerdì! E non è mica un venerdì come gli altri, eh? Intanto è il venerdì mio ultimo, nel senso che vado in ferie settimana prossima, poi torno. Ma settimana prossima non cercatemi, soprattutto a quest'ora. Non chiamate. È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! E non è un venerdì come gli altri, appunto. Signori! È il compleanno dell'Alpino! È il compleanno di Peter Bescapè. Alpino! Happy birthday to you! 40 anni, signori! Come va la penna nera a 40 anni, caro Alpino? Salutiamo con il lanciafiamme il nostro ascoltatore da Maddaloni. Saluto Luca dal nebbioso Oltrepò Pavese. Simone dal Cremonese. Simone Cremonese. Cos'è il cognome? Il paese. Basso Vicentino. Sure. Ti arriva caro Alpino anche dal nostro mitico Dieng da paese Treviso, un buon compleanno Alpino, anzi penna nera. Oh, anche grande Peter dalla Danimarca, Riccardo da Taormina, Andrea dall'Autolaghi, come sempre ci ascolta. E vabbè, ci siete quasi tutti, ci siete quasi tutti. Jenny da Napoli, c'è. Allora, se non vi siete svegliati, vi abbiamo svegliato così, un po' in maniera rock, come dire, in questo venerdì. Allora, signori, la notizia è questa: non è i fischi a Renzi, non è che Silvio Berlusconi ha rischiato di morire, non è che, insomma, tutte queste belle notizie che trovate in prima pagina. La prima notizia l'ho trovata sul Giorno e riguarda Roma, e riguarda l'ATAC, e riguarda uno sciopero. Signori, oggi iniziano gli europei di calcio. E la sigla sindacale UGL dell'ATAC di Roma Trasporti ha proclamato uno sciopero dalle ore 20:30 alle ore 0:30 di lunedì prossimo, quando, per una coincidenza astrale clamorosa, inspiegabile, c'è la partita dell'Italia. Ah, vabbè, ma siete dei maliziosi, in malafede, a pensare che le abbiano fatto questo sciopero proprio lì, quando c'è Italia contro chi giochiamo la prima, il Belgio. Saluto subito una calciofila, la nostra Silvia Brasca del TG della 7, la donna che sta in onda più di Mentana, ininterrottamente. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Silvietta, succede questa coincidenza astrale strana. Ma adesso vuoi prendere un autobus a Roma lunedì sera durante Italia-Belgio, anche te? Ecco, lì lanciafiamme forse. Il lanciafiamme, lanciafiamme. Questa del lanciafiamme, Renzi non sa cosa ha combinato, aver evocato il lanciafiamme. Lui non lo sa, l'ha buttata lì dalla Gruber, così, ma non sa che rimane, cosa rimane il lanciafiamme. Il lanciafiamme. Mannaggia, lo sciopero all'ATAC lunedì alla partita di calcio. Vabbè. Che dobbiamo fare? E insieme a voi siamo qui in questo venerdì alle 6:37 minuti. È il caso forse di aprire il Parlamento, almeno per l'ultima volta, prima di fermarci un attimo. No, ma 24 mattino continua, ci sarà Alessio Maurizi da settimana prossima, e poi alle 8:15 ovviamente Oscar Giannino. Posso andare in ferie, Silvia? Non lo so, c'è qualcosa che osta a ciò? Sì, dai, è la settimana prima, vogliamo lunedì mattina a commentare. No, sono in ferie, sono in ferie proprio settimana, tutta la settimana prossima. Ah, lunedì l'altro. Arrivi con i risultati dei sindaci. Sì, sì, sì, vi porto due pasticcini e i risultati dei ballottaggi dei sindaci. Vabbè. Dopo la rivoluzione, direi. Dopo la rivoluzione. Quale rivoluzione? C'è la rivoluzione. Se avanti così, qualche città ci avrà un sindaco, insomma, altro che la Stalingrado di Parma, mi sa. No, infatti. Ti ricordi con Pizzarotti abbiamo conquistato Stalingrado, disse Grillo, e qua altro che Stalingrado. Signori, però, al di là di tutto, al di là degli scioperi dell'ATAC, non vorrete mica prendere lunedì un autobus a Roma, soprattutto durante la partita Italia-Belgio? Non fate gli scortesi, non fate i maleducati a chiedere di spostarvi magari durante Italia-Belgio. Al di là di questo, insomma, ci sono notizie politiche interessanti. Tanto Silvia Brasca, siamo io e te, siamo da soli. Ho capito, possiamo tirarli lunga. Gianni, chi è che non si è svegliato? Non si è svegliato il nostro amico Gianni Simioli, che conduce la Radiazza Napoli su Radio Marte. È già lì, sarà ancora con i festeggiamenti e tricchi e trache. Sai che aveva fatto il festeggiamento? Non fare battute, dai. No, aveva fatto il festeggiamento, aveva organizzato la festa, credo, perché, com'è che era? Perché erano arrivati il Napoli, lo scudetto dell'onestà, credo, il primo. Questa ti piace, lo so. Sì, quest'anno hanno vinto avanti, lo scudetto dell'onestà, essendo arrivati secondi dietro una squadra che ha vinto invece il campionato. E sarà ancora lì a festeggiare. No, dicevamo, a livello politico in realtà ci sono notizie interessanti. Intanto, cara Silvia, i primi fischi. Oggi Renzi fa un'intervista al Corriere della Sera dicendo: mi fischiano dal primo giorno e continueranno a farlo, e quindi non temo nulla. Deve temere qualcosa da questi fischi? Che sta succedendo secondo te? Beh, come dicono, come appunto mi sembra scriva anche oggi il Corriere, che insomma non prende più neanche in televisione, è vero. Quindi secondo me deve stare attento. Ieri l'ha buttata sullo sport, facevo l'arbitro in Garfagnana, ma è interessante di quell'intervista, che mi sembra che per una volta abbia delle... rispetto a quella di Mattarella che avevamo commentato, almeno delle domande molto corte e risposte lunghissime, è un po' più frizzante della storia dei banchetti, che sarà il tormentone. I banchetti, sì. I banchetti alle feste dell'Unità, attenzione. Quella sui banchetti non ci volevo credere. Vorrei tranquillizzare tutte le feste dell'Unità: troverete le salamelle, troverete il lambrusco e troverete i vecchiettini volontari che fanno... Ma... forse troverete anche i banchetti per il sì al referendum. E Bersani non li vuole. Quello, allora ci sarà adesso per una quindicina di giorni, ci sarà la storia dei banchetti per il sì. Però secondo me, io do il consiglio che ha dato Dave Axelrod, lo spin sulla campagna elettorale adesso Trump-Clinton: mettete a letto i bambini, e secondo me mettiamo a letto i bambini per quello che succederà a Forza Italia, perché ne vedremo delle belle, se vogliamo parlare di politica adesso, ne vedremo delle belle. Effettivamente sì. Certo, questi fischi, devo dire, è chiaro, è andato la Confcommercio a parlare degli 80 euro, argomento, io insomma, tanto ci va lì a combattere, non è uno che arretra, però come hai fatto notare tu proprio da Lilli Gruber al TG, alla 7, gli ascolti li ha fatti più bassi di quelli di Bersani, cioè ha fatto più ascolti Bersani di Renzi. Per carità, noi poi misuriamo sempre con queste cose un po' strane il gradimento, non è questo quello che conta, si misura con i voti poi il gradimento dei politici, ma il dato di fatto è che non buca neanche più nel video. Ma non è che c'è stata una sovraesposizione secondo te di Renzi? Ma forse, sai, lui comunque è il primo ministro e quindi è diverso appunto da Salvini. No, una sovraesposizione no, è più che altro che non il suo racconto dell'Italia, no, fa fatica andare alle fabbriche, va bene, fa ragione, no? A raccontare questi tagli deve avere forse un po' più di cura anche nel raccontare l'Italia di un disagio che c'è. Ecco, quel Renzi che tanto è bene, secondo me, si è speso con la storia dei rifugiati, dei profughi, dei migranti, ecco, è l'unico momento in cui lo vedo andare, diciamo, in zone di crisi, no? Per il resto... l'Italia che va bene, che per carità c'è, ma forse mancano le parole per l'Italia che continua a non andare bene, nonostante lui, ecco. Sì. E quindi quello proprio probabilmente si è scollato. In più, anche devo dire, probabilmente ha funzionato e sta funzionando una campagna che nei confronti di Renzi ha un livore che non vedevo con Berlusconi. Sì, è vero. A proposito di Silvio Berlusconi, insomma, ieri alle 5 del pomeriggio poi il suo medico Zangrillo ha sciolto poi le riserve sul fatto che Berlusconi stavolta veramente se l'è vista brutta, ha rischiato di morire, questo ha detto Zangrillo su Berlusconi, sentitelo qua. Berlusconi ha rischiato la vita, ha rischiato di morire, sì. Ha rischiato di morire, ancora Zangrillo. Come l'ha presa il paziente? L'ha presa all'inizio non volendoci credere, perché per una persona che vuole arrivare a 130 anni questo è un incidente di percorso piuttosto sgradevole. Però lui l'ha presa con grande coraggio e grande determinazione. Vabbè, grande coraggio e determinazione. 130 anni, signori, ha alzato la posta di 10 anni. Io ero rimasto a 120, cara Silvia. E invece 130, Berlusconi, punta al rialzo, mi gioco tutto. 130, signori. Vuol dire che, dunque, 79 anni, 80, 50 anni ancora Berlusconi. Punta ancora no, questo. A me fa abbastanza impressione perché, come sai, io ho un lungo passato a Mediaset, quindi io proprio Berlusconi, ero arrivata a Mediaset nell'88, me lo ricordo come imprenditore televisivo, solo imprenditore televisivo, quando piombava a Milano 2, insomma era presente. Che ti dice? Cosa ti ricordi? Cara Silvia? No, cara Brasca? No. No, guarda, un episodio è quello quando nel 90 abbiamo festeggiato il primo anno del TG5 nel 93 e si fece una grande festa a Roma e la redazione di Milano fu portata a Roma con l'aereo privato che aveva il Berlusca che e io ero l'unica donna, allora mi avevano messo di fronte a lui, giuro mi cascassero gli occhi, e lui a un certo momento fa: ma si metta comoda. E ha fatto, insomma, azionato il sedile e si è allungato tutto. Allora lui ha iniziato a ridere, cioè, lo facevo con le fidanzate, le portavo sopra Milano, a un certo momento facevo così, e poi ha detto: adesso con Veronica sono blindato, non lo faccio più, e basta. Ecco, questo è stato il viaggio. Insomma, un approccio, un tentativo di bunga bunga, sopra le nuvole. Proprio con me, poi interista, l'avevo dichiarato subito. Esatto, subito sei entrata e hai messo le cose in chiaro, sono interista. Presidente, sono in non era ancora. Non ero ancora in politica, quindi non potevo baccagliare d'altro e l'avevo buttata. L'avevi buttata in caciara, e ale. Allora, avete capito, siamo con Silvia Brasca. Saluto anche l'ascoltatore che ci segue da Tallinn in questo momento, in Estonia. Tallinn, in Estonia. Allora, che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che andiamo a sentire le informazioni sul traffico? Sì. E andiamo sul traffico. Il primo premio va al traffico. Con il pelo lungo, con le corna aperte. Ciao signor Milan, da Napoli abbiamo una bella riflessione. Mi sembra che Bassolino è diventato più basso, Brambilla è diventato no Bramba. Poi c'è il PD che hanno messo un commissario. Poi Magistra diventa sempre più magistrale. Chi lo face? Faccio scarpe a tutti quanti, amici miei, ma che arriviamo 19, sentirete, magistra o capo, numero uno, viva Napoli! Alino, se Silvio deve andare a casa, l'amico Matteo si deve chiudere in un fienile. Senti Milan, datemi a Roma un candidato sindaco con la ramazza in spalla e io lo voto, a qualsiasi partito esso appartenga. Sì, Alessandro Milan la settimana prossima va in ferie. Ma chi se ne frega? A me interessa, per esempio, caro ascoltatore, uno a caso, però effettivamente chi se ne frega, voi, a me un pochino interessa, Silvia Brasca no, per esempio, però... Ma dove vai? Si divide così, ma no, sto da queste parti, dai, diciamo così, sto in Italia, mettiamola così, sto in Italia. Allora, però la questione è questa, se Berlusconi debba lasciare la politica, questa è la domanda che si pongono tutti, pare che Marina Berlusconi, secondo i giornali, abbia accusato il cerchio magico dicendo voi è colpa vostra, ma avete strapazzato il papà. E, no, al di là delle faide che ci sono, ovviamente, la questione è seria. Insomma, qui Silvia si pone il problema che Berlusconi non ha mai pensato a una leadership dopo di lui. perché è fatto anche così, insomma, non in azienda ha messo i figli e quindi l'azienda sì, il Milan sì. Vabbè, non ti prego, non parliamone, perché lasciamo stare. Come vedi, non è che cioè, vengono dalla cioè, Galliani con Falognieri, adesso è come se fosse la famiglia allargata, non ha mai saputo prendere qualcuno da fuori. In un certo momento, anche per le televisioni, quando a un certo momento c'era un momento di crisi, non ha pensato, vabbè, prendo un manager, vediamo, no, mai. Quindi evidentemente proprio non è nel suo carattere cedere e pescare da fuori. Ai figli nelle aziende, altri punti chiave, appunto, vediamo ancora gli unici carini sono Galliani e Confalonieri, non ha mai saputo. Totti? Non pensiamo lo so. che possa ma no, io credo ovviamente che fare qualsiasi nome, nessuno ha la leadership, la cosa il che carisma lui è ancora Berlusconi. Forte perché a Milano Forza Italia ha preso ma c'è, ma solo l'operazione dovrà stare un mese, dicono, in riabilitazione, insomma non potrà, no, già per esempio settimana prossima chiaro, non potrà dire una parola per i ballottaggi, così, ma del resto che avesse una forza, appunto, dinamismo, ma una fragilità anche fisica, lo si vedeva. Quando quell'immagine con Bertolaso, lui con gli occhialoni neri, insomma, era già l'immagine, l'immagine, una persona fragile, adesso non dico i giardinetti, pensa che io pensavo che si fosse buttato nel Texas Hold'em con quell'immagine lì, e invece no, ma ti immagini fare una campagna elettorale, cioè anche ma alle no. politiche è una cosa di uno stress inimmaginabile. Vabbè, comunque staremo a vedere ovviamente Silvio Berlusconi, però cara Silvia Brasca, sta tornando alla ribalta una persona. Oddio. C'è una persona che fa un'intervista oggi alla stampa, si tratta di un ex sindaco, recentissimo ex sindaco, il Marziano. Chi è? Ignazio Marino, che è dice... quello che lancia, che fa l'endorsement. Voto per la Raggi. Non so se la Raggi in questo momento stia toccando ferro da qualche parte. Ignazio Marino, sentilo qua. Ma guarda che io gli ho dato anche una mano, perché se mi candidavo io, Giachetti se lo scordava il ballottaggio. Sì, questa non lo capisco. Se mi candidavo io, se lo giocava il ballottaggio. Vabbè, cioè, andava via. No, credo di sapere quanto ha venduto il libro di Marino, ecco, una delle cose. Ma voglio proprio leggermi il libro di Marino. Io che provo tenerezza per tutti, quasi quasi me lo compro per questa settimana di ferie, me lo porto in ferie e poi vabbè, te lo faccio sapere. Però è un momento importantissimo, prima dell'attimo del momento Brunetta, che è molto atteso. Io lo so che il momento Brunetta da tutti i nostri ospiti è molto atteso. Devo salutare, devo fare dei saluti, cara Silvia Brasca, sai dove ti stanno ascoltando in questo momento in diretta, grazie alla straordinaria magia della radio. Dimmelo, fammi sognare. Da Christchurch. E tu mi dici adesso, come l'alpino che oggi compie 40 anni dal labiale, ha detto, e dove minchia è Christchurch? In Nuova Zelanda, signori! Saluta me, 0064210, e non continuo con il numero di telefono, ci scrive via WhatsApp dalla Nuova Zelanda in questo momento. Saranno, credo, le 7 di sera. Sta preparando cena. Cosa si mangia? Facci sapere da Christchurch cosa mangia a cena oggi in Nuova Zelanda. Il pesce? Il pesce, ma ovviamente, sono subito un bananotto. Secondo me pecora, quella era un... Ma che pecora? Mangiano le pecore! Ma che ricetta bergamasca della Lussana! Le pecore mangiano in Nuova Zelanda. Senti qua il Brunetta del giorno. Perderà a Torino, perderà a Milano, perderà a Trieste. C'è qualche possibilità che perda anche a Bologna, ancorché il candidato sindaco del PD sia un anti-renziano. Perderà certamente a Roma e ha già perso a Napoli. E più di così, ormai con questo clima, con questa aria che tira, Renzi ad ottobre non arriva. Non arriva ottobre! cara Silvia, staremo a vedere. Ce li teniamo tutti questi pronostici, eh? Tutti quanti i pronostici di Renato Brunetta sulle comunali. Perderà ovunque, ha già perso e perderà ovunque. Intanto io, Silvia, ti abbraccio, ci sentiamo lunedì, ma quell'altro, che io sono in ferie, e ciao. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:20 minuti, cari signori, in questo venerdì, giorno in cui si chiude la 162esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. E dai che ci siamo. Settimana prossima, come sapete, sarò in ferie, eh? Quindi Milan, bella vita, eh? 2 settimane in vacanza. Oh, bella vita. Una settimana. Una la prossima, una, caro ascoltatore, una misera settimana, una settimanella spilorcia. Allora, va bene, intanto andiamo a leggere i giornali, eh? Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh? È venerdì 10 giugno, i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore sulle banche, platea più ampia, più tempo per i rimborsi, questo è il titolo di prima pagina. Sulle banche e anche l'apertura del Fatto Quotidiano, in modo un po' diverso. Leggi vergogna, invece di salvare la gente truffata, fanno un altro regalo alle banche. Gli istituti di credito potranno espropriare gli immobili ai morosi, questo è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Il Corriere della Sera invece ha un'intervista al Premier. Renzi, è solo un voto locale, andremo avanti con il cambiamento, ci sarà spazio per ridurre le tasse, parla il Premier e tra poco lo vedremo al Corriere della Sera. E poi Berlusconi e la paura, il rischio di morte, questo sugli altri quotidiani. Repubblica, rischiava di morire, basta politica, Berlusconi sarà operato al cuore. La Stampa, si apre il dopo Berlusconi, il medico dice poteva morire. Il Messaggero, Berlusconi malato, basta politica, sono le parole del dottor Zangrillo, il suo medico. Libero, salvate il soldato Silvio, operazione d'urgenza. Il Giornale, Berlusconi ha rischiato di morire. Berlusconi, la grande paura anche per il secolo XIX. Insomma, come vedete, soprattutto su Berlusconi le aperture. Io però voglio partire da questa decisione della Cassazione che è raccontata da tutti i giornali. Il Sole 24 Ore dedica una pagina, pagina 7, con l'articolo di Gianni Trovati. La Cassazione stabilisce, per gli statali l'articolo 18 resta. Cari dipendenti pubblici, 3.300.000, potete dormire sonni tranquilli. La Cassazione ha stabilito questo in una sentenza relativa al servizio di un statale che negli stessi giorni risultava al lavoro sia a Roma sia a Bussolengo, vicino Verona, senza traccia di viaggi aerei, peraltro. La decisione della Cassazione comunque ha confermato il licenziamento, perché i fatti erano provati per questa persona. Ma si dilunga poi, come racconta Gianni Trovati, sull'articolo 18, e qui è un ginepraio di interpretazioni, perché si sa, in Italia le cose non possono mai essere fatte in maniera semplice, chiara, limpida, concisa. No, ci sono sentenze, controsentenze, interpretazioni, l'interpretazione della legge del 1970 nella sua versione di immutabilità, insomma, l'articolo 18 scritto nel 1970, la legge Fornero poi del 2012, qualcuno dice che la legge Fornero doveva farlo reinterpretare, qualcun altro dice di no, insomma adesso la Cassazione dice di no, che rimane, tutte interpretazioni. Il dato di fatto è che il titolo sui giornali, per gli statali la Fornero non vale, questo è anche il titolo del giornale, l'articolo 18 per gli statali vale ancora, anche il Corriere della Sera a pagina 5, insomma tutto chiaro, no? Fino alla prossima sentenza e interpretazione. È tutto chiaro anche all'ATAC. ATAC, azienda dei trasporti di Roma, signori. C'è uno sciopero in vista. Lo sciopero è venerdì? No. Siete maliziosi se pensate che mettano lo sciopero il venerdì per attaccarlo al weekend. Siete maliziosi. Lo sciopero questa volta è lunedì. E dite, e beh, voi si attacca comunque al weekend. E no! Questa volta lo sciopero proclamato dalla sigla UGL sarà lunedì sera dalle 20.30 alle 0.30, quindi a mezzanotte e mezza di martedì. Che orario insolito, che orario strano per uno sciopero. Sarà mica che lunedì c'è la partita degli europei di calcio Italia-Belgio? Non so, sarà mica... Ma è una strana coincidenza, effettivamente. È un'incredibile coincidenza. Uno sciopero da... dalle 8.30 di sera a mezzanotte e mezza del martedì, proprio in coincidenza dell'esordio degli azzurri agli europei di calcio. Come sono cose che capitano, direbbe la nostra Italia in campo. Bus fermi, bufera sullo sciopero ATAC sul Messaggero a pagina 34, protesta dell'UGL che scatterà lunedì alle 20.30. C'è a questo proposito il buongiorno di Massimo Gramellini, lo sciopero perfetto. Per la serata di lunedì prossimo a Roma, l'UGL degli autoferrotranvieri ha apparecchiato uno sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici. Si può immaginare che la decisione stia provocando tra gli utenti una certa indispettita curiosità dal momento che proprio lunedì sera, a partire dalle 21, l'Italia giocherà. Il candidato sindaco Giachetti ha sottolineato la straordinaria coincidenza tra i due avvenimenti, quasi a voler insinuare il sospetto che gli scioperanti abbiano per una volta anteposto meschini calcoli di bottega alle sacrosante esigenze dei cittadini. Ma solo un osservatore particolarmente malevolo potrebbe mettere in dubbio che i sindacalisti utilizzeranno il tempo dello sciopero per riunirsi in una sala orfana di televisori a dibattere animatamente i problemi della loro categoria. Va semmai lodata la sensibilità di chi, per non gravare sul sistema nervoso della popolazione, ha programmato lo sciopero in un orario in cui i mezzi pubblici sarebbero stati comunque vuoti. Così invece il tifoso potrà agevolmente recarsi a casa da amici con l'autobus delle 8, gustarsi con calma le interviste, i commenti del dopomatch, moviole, movioloni, per poi uscire di strada all'1 di notte a sciopero finito, confidando che qualche sindacalista dell'ATAC reduce dalla partita, dalla riunione, si degni di tirarlo su. E vabbè, tra l'altro a proposito di ATAC parla... per la prima volta Marco Rettighieri è il direttore generale ingegnere classe 58, è intervistato da Natalia Lombardo per l'Unità a pagina 7, dice: curo l'ATAC dalla mala gestione, a Roma servono risorse, tram e bus, diciamo che avrei potuto trovare l'ATAC meglio. Questo è il commento d'esordio di Rettighieri. Certo, io prendo la metro, alla domanda, ma lei la prende la metro? Le è capitato di fermarsi al buio in galleria? La prendo, certo, giro in incognito e da solo anche alle 5 di mattina. Alle 5 di mattina. Ho trovato un altro che si sveglia come noi alle 5 di mattina, Peter. È il direttore generale dell'ATAC. La prendo alle 5 di mattina, non mi è mai successo di restare fermo, avrò portato fortuna, ma è grave. Ora c'è un disservizio sulla metro A, perché sono in corso revisione dei treni, ci sono meno mezzi. Le vetture della linea A in media hanno 15 anni, quelle della B 18 anni. Dobbiamo intervenire assolutamente. Poi parla dei dossier, i fascicoli, 3 in audizione al Senato, riguardano alcuni distacchi sindacali, la gestione delle mense, la fornitura di pneumatici per i bus, sui quali però Rettighieri oppone un silenzio, non posso dire di più. E alla domanda aumenteranno gli stipendi, si potrà cominciare a parlare di incrementi in base alla produttività come avviene in tutto il mondo quando avremo risanato. Insomma, e poi come combatterà l'evasione, cioè la gente che non paga il biglietto? Risponde Rettighieri, sui bus ci sarà un sistema di controllo automatico. Al posto del biglietto di carta avremo tessere elettroniche ricaricabili riconosciute da un rilevatore della presenza a bordo. Le tessere saranno del tipo contactless e consentiranno di far sapere quanti passeggeri salgono e scendono. Se la disparità sui biglietti supera il 5%, scattano i controlli. Così il direttore generale dell'ATAC, Rettighieri. Siamo invece all'articolo che mi fa pensare della giornata è l'articolo che riguarda in realtà una problematica seria, riguarda una, un caso di cronaca di Firenze di cui parla Franca Selvatici su Repubblica, riguarda una signora che ha problemi psichiatrici molto seri e per la quale non si può fare niente. Non si può fare niente perché lo Stato non può fare niente, perché la maggior parte dei malati psichiatri, di casi psichiatrici, sono affidati solo alle cure delle famiglie e a volte alla disperazione delle famiglie. L'incendiaria che nessuno può fermare. Su Repubblica, una storia incredibile, pagina 21. La mina vagante ha colpito anche la notte scorsa, dal 2013 a oggi ha forato centinaia di pneumatici, ha dato fuoco ai deor di una decina di locali, ha imbrattato i muri, ha insultato l'avvocatessa che cercava di aiutarla, ha causato danni per oltre 1 milione e non c'è nulla da fare. Senada K, K è l'iniziale del cognome, 38 anni, origine bosniaca, ben vestita, ordinata, apparentemente gentile. Una persona che soffre da sindrome delirante a sfondo persecutorio non è imputabile perché è giudicata incapace di intendere e volere. Eppure va in giro, incendia i deor dei bar e poi dice: guardate, scendono le fiammelle dal cielo. Secondo la psichiatra, appunto, è gravemente malata. Un avvocato ha tentato di curarla e lei si è, dopo un po', anche scagliata contro l'avvocatessa. Ha creato danni per, in un solo bar, di 100.000 euro e si presenta sempre dicendo: cerco un accendino per bruciare poi di notte i deor dei bar. Aveva cominciato 3 anni fa forando le gomme, poi ha iniziato a dare fuoco ai locali, per la legge non è perseguibile e non c'è neanche spazio nelle strutture specializzate e lo Stato non può far niente. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Hello, this is George Clooney, and this is my Shogi Lingua. How much wood can a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Thank you and goodbye. Great George! Thank you very much, George! Beh, ma ragazzi, questo Sciogli Lingua che non ripeterò neanche sotto minaccia, sotto tortura. Me lo potete tagliare? Lo rimettiamo, Peter. Smettila di mangiare brioche, va bene che è il tuo compleanno, ma siamo in diretta. Poi ti cadono i pezzettini di brioche nel cursore e blocchi tutta la radio, tutta la radio. Anzi, tienimi un pezzo di brioche, grazie. Senti qua. George Clooney. Sentilo, Sciogli Lingua. Lingua. How much wood can a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Thank you and goodbye. Thank you, George. Eh beh, non male, eh? Mandateci al 349-238-6666. Allora, cari signori, sul Corriere della Sera parla Matteo Renzi, che è stato fischiato anche da alcuni rappresentanti a Confcommercio, ieri all'Assemblea dei Commercianti. E quindi viene intervistato da Maria Teresa Meli a pagina 2 e 3 del Corriere, parte proprio dai fischi. È finita la luna di miele, caro Premier, non vorrei deluderla, risponde Renzi, ma io ho preso fischi dal primo giorno e continuerò a prenderli, mettendo la faccia ovunque. Non è una novità. Sono invece molto contento del fatto che chi ieri contestava la Confcommercio alla fine è sceso a discutere con un paio di loro e scattato perfino l'abbraccio. E ancora le amministrative. Ho legato la mia permanenza al governo all'approvazione delle riforme del referendum e mi hanno accusato di aver personalizzato. Ora gli stessi vorrebbero legare il governo al voto di alcune realtà municipali, ma non scherziamo. Si rassegnino, le elezioni amministrative sono un passaggio locale. Utili tutte le riflessioni sociologiche di questo mondo, ma stiamo parlando di episodi territoriali. È ovvio che preferisco che vinca il PD. È ovvio anche che il PD deve affrontare un problema interno, perché non è possibile continuare con un gruppo dirigente che tira e altri che tutti i giorni lavorano per dividere. Qui Renzi, insomma, parla del cosiddetto lanciafiamme, anche se non la usa più questa espressione, forse infelice. Riguardo però alla diatriba con Bersani, che chiede di non far mettere i banchetti per il sì alle feste dell'Unità, risponde Renzi: è un atteggiamento che mi colpisce molto e non capisco. Ci siamo giocati tutta la legislatura, nata dal fallimento elettorale, sulle riforme. Abbiamo fatto 6 letture cambiando il testo per venire incontro alle esigenze di tutti. Sappiamo che se la riforma non passa l'Italia tornerà a ballare per instabilità. E io dovrei vergognarmi di quello che abbiamo fatto? Qui sta il punto. E queste sono le rivendicazioni che poi Renzi fa, che dice: ho cambiato troppo poco nel PD, lo farò di più. Insomma, 2 pagine di intervista, parla di tante cose, anche di immigrazione, di Immigration Compact, e annuncia dunque: avremo i banchetti per il sì al referendum nelle feste dell'unità. Questo susciterà sicuramente lo scontro all'interno del PD. Certo, è un Renzi che ormai, racconta la stampa, è forse un po' sovraesposto mediaticamente, tanto che l'ultima performance da Lilli Gruber non è andata benissimo. Pensate, racconta Fabio Martini sulla stampa, ha ottenuto il 6,23% di share contro il 6,7% di Bersani un mese prima. Quindi Bersani in TV dalla Gruber ha fatto più ascolti di Renzi, per carità. La stessa stampa dice sono, come dire, dati che valgono per quello che valgono, però ci sono anche i sondaggisti che cominciano a dire non appassiona più, forse è troppo visibile ultimamente e quindi non tira più quando appare in video nel pubblico. C'è da dire che Sangalli, presidente dei commercianti di Confcommercio, viene intervistato sia da Repubblica che dal Giornale, smussa un po' le contestazioni, i fischi. Al Giornale, intervistato da Gianmaria De Francesco, dice: i fischi sono arrivati quando il Premier ha parlato degli 80 euro, non sono certo giustificabili, ma non dobbiamo sottovalutarli. E con ogni probabilità quelle 4-5 persone che hanno mostrato intolleranza nei confronti del Premier sono imprenditori stremati dalla crisi, che non hanno beneficiato della misura. Le nostre sono assemblee vere, senza barriere, parlano gli imprenditori. Io stesso, da presidente, quando faccio la relazione posso non incontrare la condivisione dei miei associati. Insomma, Sangalli dice un po' un'arena molto libera e molto pugnace, quindi ci sta quelli che definisce i fischi di 4-5 persone. Berlusconi invece, l'altra situazione politica che oggi va su tutte le prime pagine del giornale è quella di Silvio Berlusconi, però per motivi di salute. Berlusconi ha rischiato di morire, questa è la frase scolpita su tutti i giornali con le parole del suo medico personale Alberto Zangrillo. Gli auguri che sono arrivati da lui anche da avversari politici, da chi l'ha sempre osteggiato. Pensate, Dario Fo: ce la farà benissimo a superare il momento, ha una forza d'animo e fisica straordinaria. Chi l'avrebbe mai detto che uno dei primi sarebbe stato Dario Fo a manifestare solidarietà nei confronti di Silvio Berlusconi? Comunque, Zangrillo ha detto ha rischiato di morire. Ora dovrà essere operato, dovrà fare una riabilitazione. Zangrillo dice, riguardo al suo futuro in politica, potrà tornare a fare ciò che vuole, ma io gli sconsiglio da tempo di fare il leader. E dunque è chiaro che tutti i giornali sono proiettati, Repubblica dedica le prime 5 pagine a questo, alla successione in qualche modo, l'ipotesi di un direttorio. Raccontano anche i giornali, lo fanno soprattutto Il Giorno e Il Fatto Quotidiano, di una Marina Berlusconi e dei figli infuriati. Infuriati con chi? Con il cosiddetto cerchio magico. La senatrice Rossi viene indicata come una Maria Rosaria Rossi, una contro cui si sarebbe scagliata Marina Berlusconi. Stava morendo per colpa vostra, racconta Fabrizio D'Esposito sul Fatto. Questa l'accusa di Marina Berlusconi: com'è possibile che sia andato in giro in queste condizioni? Com'è possibile che non vi siate accorti che stava male? Perché lo avete mandato al seggio sapendo che rischiava di morire? Questo è il racconto del Fatto Quotidiano, mentre Concita Sannino riesce a sondare gli umori di Francesca Pascale. Dal letto lui calma noi. Sento che andrà tutto bene, ma è Dio che comanda. Così Francesca Pascale su Repubblica. Lui è molto forte, ascolta i medici. Sono io che avrei bisogno di cure, sono un'emotiva, ma anche a mio modo, molto reattiva e forte. sento l'importanza di un'altra cosa che viene dalla mia fede, dalla mia cultura popolare. Va bene, poter contare su bravissimi medici è fondamentale, grande privilegio, ma è sempre Dio che comanda. Così, Francesca Pascale, su Repubblica. Qualche parola viene fatta filtrare anche sul Corriere della Sera da Francesco Verderami, pagina 9, un Berlusconi che fa dire ai suoi: dite che io sicuramente torno, il mio spirito non si fiacca. E vabbè, insomma, questo anche pende sulle amministrative, ma forse il leader, il successore, il direttorio, potremmo farlo io e Mauro Meazza. Siamo già in due, manca il terzo. Peter Bescapè, che è il tuo compleanno, forse tocca a te. Dai, Mauro. Buongiorno, buongiorno, molti auguri anche a Peter per il suo compleanno. Grande, 40 anni. Hai preso il diario che devo ricordarti i compiti, sì, per le vacanze, ecco, visto qua, che è debosciato, che non sei altro. Questo anche da parte di molti ascoltatori. Penna che... e carta, dimmi. Bravissimo. Allora, ti sei già segnato ieri, segna, sottolinea, sì, martedì e mercoledì con il Sole 24 Ore, sarà? Martedì, no, condominio. Ma, sì, martedì c'è, no, martedì, ogni martedì c'è la pagina, sì, di condominio, ma il prossimo martedì, mentre tu sarai in ferie gozzovigliando. Ho dimenticato il diario a casa. Ma santa pazienza, ma cosa devo fare con te? Allora... martedì e mercoledì comincia l'economia per la famiglia. Ecco, lo sapevi ma non ti veniva in mente, sì, ce l'avevi sulla punta della lingua. Allora, che cos'è? È una serie di instant book in cui spieghiamo in parole semplici i grandi temi dell'economia. Così come oggi sul Sole 24 Ore troverai a pagina 2 e 3 la spiegazione di cosa contiene questo decreto banche, che non vorrei che tu mi trascurassi perché è abbastanza importante. Non so, potresti lasciarmi ad esempio in pegno non possessorio i tuoi due urini? Si potrebbe adesso fare. Io faccio lo spiritoso, ma la questione è seria. Qui la questione coinvolge i finanziamenti alle imprese e il sistema del credito. Tutte le spiegazioni con anche il giudizio, il rating, rating 24, sulle pagine 2 e 3, tra l'altro appunto questo decreto che attende ora solo il voto finale a breve, contiene appunto queste indicazioni sul pegno non possessorio e sul cosiddetto patto marciano, che invece riguarda gli immobili. Insomma, tu dai in garanzia un immobile e se poi non paghi il finanziamento, l'immobile passa di mano. Molte altre cose, tra cui ti segnalo uno scivolo fino a 7 anni per gli esuberi in banca, ma tutti i particolari in pagina 2 e 3. Invece saltando completamente alla parte di norme e tributi che tu tutta la settimana prossima dovrai leggere compulsivamente, può andare compulsivamente al posto di religiosamente, va bene, te lo concedo perché sono pur sempre vacanze. Comunque scoprirai che sono in preparazione i moduli per la legge Cirinnà. Sai che c'è la legge, c'è, però manca il pezzo burocratico. Allora stanno preparando i moduli per adeguare appunto i lavori degli uffici anagrafe, per esempio, perché tutta questa parte va adeguata alla nuova legge Cirinnà sulle convivenze e sulle unioni civili. Inoltre, sempre su norme e tributi, che tu sempre leggerai religiosamente e riprendi il diario, sì, ti vedo che, non, sì, che ti sei già distratto, sì, troverai ancora risposte sull'IMU e la TASI. Perché devi riprendere il diario? Perché il 16 di giugno, che è giovedì, devi pagare se hai non la prima abitazione, ma ad esempio il capannone. Tutte quelle parti commerciali pagano ancora. Quindi attenzione, tutte le spiegazioni, anche oggi altre risposte su norme e tributi, e poi sul sito resta sempre a disposizione il nostro ebook. Ho visto che ti sei appassionato alla vicenda dell'articolo 18, che resta, come dire, vivo per gli statali. Quindi, come riassumiamo oggi sul Sole, ci sono praticamente tre categorie di lavoratori: gli statali, quelli del privato e i nuovi assunti del Jobs Act, e sono tutti con garanzie variabili. Il riepilogo oggi sul Sole 24 Ore, ma soprattutto c'è un dato che invece potremmo dire da dita incrociate: ci sono stati 341.000 contratti a tempo indeterminato in più. Non so, i motivi ci porterebbero via molto tempo, ma intanto mi sembra una buona notizia, te la volevo segnalare. Non perdere di vista la Brexit, intanto che sei in vacanza, mi raccomando. Lo farò. Ecco, stai attento, leggi oggi sul Sole 24 Ore sia gli effetti sui mercati finanziari, sia il contributo del nostro corrispondente da Londra, Leonardo Maisano, sui timori delle imprese italiane. A questo punto io ti faccio tanti cari auguri per le tue vacanze, ma bene, questa volta sono sinceri, e soprattutto ti auguro di non trovare nei tuoi spostamenti traffico! Alessandro Milan, è tempo che tu vada in ferie dell'informazione! Esatto, anche perché c'è poco spazio ormai per raccontare quello che c'è sui giornali. Per chiudere il cerchio sulle amministrative vi segnalo l'inchiesta riguardante due candidate del PD a Napoli, Anna Ulleto e Rosaria Giuliano. Leggo dall'articolo di Fulvio Buffi e Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, pagina 10. Sono le candidate PD che sono accusate di avere garantito a giovani, a una trentina di giovani, corsi di formazione e contratti a progetto in cambio del voto. Questa è l'accusa e ora si indaga e l'indagine si allarga, fa sapere il Corriere della Sera. Mentre spunta Ignazio Marino a pagina 10 della Stampa, un'intera pagina di intervista di Jacopo Iacoboni, Marino e il sostegno alla Raggi. Non posso proprio votare Giachetti. Fa una lunga intervista Marino che conclude così. Se Giachetti si presenta con un foglio firmato da Renzi in cui dice che è stata un'azione gravissima deporre il sindaco con un atto notarile, lo voto. Altrimenti, mi spiace, non posso proprio votarlo. Credo che non avverrà la prima delle due situazioni. Libero invece fa da un paio di giorni una battaglia anche fotografica nei confronti del candidato Sala, a Milano, beccato ieri che ha lasciato la macchina 3 minuti in doppia fila, e oggi c'è questa foto su Libero che passa davanti a un venditore di borse così stese per terra, chiaramente borse si può presumere contraffatte, di marca contraffatta, insomma abusive, e passa con nonchalance lì a fianco senza fare nulla. Insomma, Sala se ne frega degli abusivi, questo è il titolo di pagina 7 di Libero con le foto. Lui, Mister Expo, dice la macchina l'ho lasciata 3 minuti in doppia fila, insomma è andato al bar a mangiarsi una brioche vicino a casa. Mister Expo scivola ancora sulla legalità, in visita a un mercato all'aperto nel centro di Milano, passa di fianco a un venditore di borse false senza fare una piega, e c'è la foto su Libero, va bene. Sentite, qua bisogna capire cosa leggere. Vi segnalo il sindaco di Lodi, colui che era stato arrestato per la storia delle piscine, è uscito dal carcere, è la prima intervista che fa al Giorno, intervistato da Tiziano Troianello. Mi dimetto, ho sbagliato ma non ho rubato, ma lascio la città il 31 luglio. Ribadisce, ho agito per il bene della città. Non avevo quale fine quello di violare le norme, ma ottenere un risultato utile per il comune. Comunque, pur non vergognandomi, mi dimetto. Vi segnalo anche che probabilmente abbiamo sbagliato persona. Ieri parlavo dell'etiope Meden Bare, estradato dal Sudan, grande trafficante di uomini, ma effettivamente la persona che è scesa, se vedete c'è la foto che ho messo sul mio profilo Twitter, Alino Milan, scende una persona dall'aereo con due persone della polizia, estradato in Italia, e non sembra la stessa persona delle foto segnaletiche del trafficante. Insomma, le sorelle dicono avete preso il Medan sbagliato, si chiama Medan anche lui, ma non è il trafficante che cercate, è una persona diversa. Il volo di Stato per sequestro dello scafista sbagliato, titolo del Fatto Quotidiano. Anche La Stampa parla di clamoroso abbaglio sul super boss dei trafficanti. Insomma, mi sa che invece del Gheddafi dei trafficanti abbiamo portato qui in Italia, o ci hanno consegnato, una persona che non c'entra assolutamente nulla, ancorché vagamente a lui somigliante. Speriamo sia buona la seconda. Siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali va a Libero. Gemma Gaetani, prima pagina e poi pagina 26. Siamo videodipendenti e va bene, ma questa mania di vedere le serie TV uccide i rapporti sessuali. Non ma si chi fa più se sesso. Ne frega!